Una luce verde ammicca obliqua sul golfo di Kidd. Segnala il punto dove il galeone Jolly Roger sta all'ancora nell'acqua bassa. Era il cannibale dei mari e non le occorreva nemmeno l'occhio vigile della verde lanterna di guardia, difesa com'era dall'orrore della sua fama. L'avvolgeva il mantello della notte. Uncino camminava sul ponte immerso nei propri pensieri. Era venuta l'ora del trionfo. I bambini sono incatenati in modo da non poter volar via? E allora portate su la loro madre e preparate l'asse. I bambini impallidirono vedendo Dente Duro e Cecco preparare l'asse. All'apparire di Wendy però vollero mostrarsi intrepidi. Nessuna parola potrebbe descrivervi il disprezzo di Wendy per i pirati. Uncino tuonò: «Legatela!» Poi sorrise a denti stretti e mosse un passo verso Wendy. Non gli riuscì però di raggiungerla perché udì qualcosa di tremendo. Il terribile tic-tac del coccodrillo. Lo udirono i pirati, lo udirono i ragazzi, lo udì Wendy. Tutte le teste si volsero di scatto in una sola direzione, verso Uncino. Il mutamento di Uncino fu terrificante a vedersi. Cadde come un sacco di cenci. Il suono si avvicinava sempre più rapido e distinto. L'uncino di ferro pendeva inerte, quasi sapesse che non era parte di ciò che l'aggressore voleva. Carponi, il capitano, si trascinò lungo il ponte, più lontano che poté da quel suono. I pirati gli aprirono rispettosamente un passaggio, raggiunto il boccaporto, infine parlò e disse angosciato: «Nascondetemi. Ora. L'ultima volta che abbiamo visto Peter, strisciava furtivo attraverso l'isola che non c'è. Il coccodrillo gli era passato vicino senza che lui avvertisse nulla di particolare, ma poi, ripensandoci, si era reso conto di non aver udito il tic-tac. Concluse che l'orologio doveva essersi fermato. Si domandò subito come volgere a proprio vantaggio la situazione e decise di mettersi a fare tic-tac. E fece tic-tac così bene che il coccodrillo, udito il suono familiare, prese a seguirlo. Non sappiamo se con l'intenzione di recuperare l'orologio, che forse credeva di aver perduto, o solo d'amico. E mentre nuotava, un solo pensiero occupava la mente di Peter: o Uncino o io, questa volta. E continuava a fare tic-tac senza accorgersene. Abbiamo già detto della mente di Peter, era confusa, era in movimento e i pensieri passavano senza fermarsi, come quella di tutti i bambini. Perciò non meravigliatevi se non ricordava che era lui a fare tic-tac. Peter raggiunse la Jolly Roger, convinto di aver scalato la murata del galeone silenzioso come un topo. Si stupì di vedere i pirati fuggire in direzione opposta alla sua e Uncino in mezzo a loro, atterrito, quasi avesse udito il coccodrillo. Il coccodrillo. Non appena Peter se ne rammentò, udì anche il ticchettio. Si guardò rapidamente alle spalle, ma non capì di essere lui stesso a produrlo. Si rese conto immediatamente del vantaggio e si rallegrò di essere stato così abile. Fece cenno ai ragazzi di non fiatare. In quel momento esatto, il quartiermastro Testamento balzò fuori dal castello di Prua e avanzò lungo il ponte. Ora, lettore, cronometra sul tuo orologio in quanti secondi si svolsero gli avvenimenti. Peter colpì a fondo Testamento. Gianni, con le sue mani, soffocò sulla bocca dello sciagurato un gemito della morte. Testamento cadde in avanti e il cadavere fu lanciato in mare. Uno! Cominciò a registrare Volpuccio. Peter sparì in cabina camminando in punta di piedi. Alcuni pirati, ripreso coraggio, uscirono a spiare che cosa fosse accaduto. Adesso ognuno poteva udire il respiro affannoso degli altri e questo dimostrava loro che il terribile tic-tac era cessato. «È passato, capitano!» annunciò Spugna. Uncino sporse pian piano la testa dal suo collare di merletto e prese ad ascoltare così attentamente che avrebbe udito persino l'eco del tic-tac. Non si udiva, invece, alcun rumore. Si eresse fiero in tutta la sua altezza e gridò, odiando più che mai i ragazzi perché lo avevano sorpreso in un momento di vigliaccheria, «E ora, avanti con l'asse! Volete anche una carezza del gatto a nove code prima di fare la vostra passeggiatina?» A queste parole i ragazzi gli caddero davanti in ginocchio gridando pietosamente «No! No! Vai a cercare il gatto, dente duro! È in cabina!» In cabina? C'era Peter in cabina! I ragazzi seguirono con gli occhi dente duro mentre Uncino e gli altri pirati cominciavano a cantare. All'improvviso la canzone venne interrotta da un terribile urlo proveniente dalla cabina. «Due!» «Che è questo?» chiese Uncino. Cieco, l'italiano esitò un momento, poi si lanciò nella cabina, uscì barcollando, atterrito. «Dente duro! È morto! Pugnalato!» La cabina è nera come un abisso, ma dentro c'è qualcosa di terribile. «Cieco, ritorna indietro!» «E tirami fuori quello spauracchio!» Cieco, il prode tra i prodi, gli cade davanti in ginocchio, gridando «No! No!» Ma il capitano, agitando l'uncino di ferro, «Hai detto che andrai, vero?» Cieco si avviò. Nessuno più cantava. Di nuovo giunse l'urlo di morte. «Tre!» «Per mille balene! Portatemi lo spauracchio!» «Voglio essere impiccato piuttosto!» rispose un pirata e subito la ciurma lo appoggiò. «È un ammutinamento?» domandò il capitano, minacciandoli ad uno con l'uncino affilato. Poi afferrò la lanterna e alzò minaccioso il moncherino di ferro. «Ebbene! Andrò io stesso a stanare lo spauracchio!» Volpuccio non vedeva l'ora di poter dire quattro, ma Uncino uscì barcollando e senza lanterna. Qualcosa ha soffiato sul lume. Cieco è morto come dente duro. I pirati sono tutti superstiziosi. Cambusa gridò «Questa nave è maledetta!» E uno dopo l'altro i pirati gridarono «Questa nave è maledetta!» A queste grida si unirono i gioiosi e viva dei bambini. Uncino, che aveva quasi dimenticato i suoi prigionieri, si illuminò. «Ciurma! Ho trovato! Aprite la porta della cabina e ficcateli dentro. Lasciamoli combattere con lo spauracchio. Se lo uccidono, è meglio per noi. Se vengono uccisi, non sarà un male». I pirati obbedirono, pieni di ammirazione per il loro capitano, e spinsero nella cantina i bambini sperduti che fingevano di opporre resistenza. Nella cabina Peter aveva rintracciato la chiave per liberare i ragazzi dalle manette. Essi uscirono poi furtivamente con tutte le armi che avevano trovato e dietro suo ordine si nascosero. Poi Peter tagliò le funi di Wendy. Nulla sarebbe stato più semplice a questo punto che volar via tutti insieme. Tuttavia lo impediva un giuramento: o Uncino o io. Questa volta Peter bisbigliò a Wendy che si nascondesse con gli altri e ne prese il posto contro l'albero maestro, avvolto nel mantello di lei. Poi fece una lunga ispirazione e lanciò il suo chicchirichì. Peter balzò fuori dal mantello e tutti capirono che aveva compiuto la strage nella cabina. «Colpitelo! Colpitelo al petto!» «Fuori, ragazzi, adesso!» Tutta la nave risuonò del fragore delle armi. I pirati avrebbero vinto se si fossero mantenuti uniti. Ma l'assalto

non senza un pizzico di orgoglio quando Michele le mostrò il punto dove aveva ucciso un pirata, poi li condusse tutti nella cabina di uncino. In un attimo li mise a letto nelle cuccette dei pirati. Soltanto Peter restò sul ponte, camminando su e giù tutto impettito, finché non cadde addormentato vicino al cannone. Ebbe uno dei suoi sogni quella notte e pianse a lungo nel sonno. Allora Wendy lo cullò, tenendoselo a lungo stretto tra le braccia. Grazie a Leonardo De Colle e Gabriele Falsetta, attori del Piccolo Teatro, che hanno letto magistralmente queste prime pagine scelte di Peter Pan. Il tema è la memoria e l'oblio. I libri scelti, eccezionalmente due, Peter Pan, per l'appunto, e Padri e figli di Turgenev. Alberto Meomartini, Asso Lombarda, la domanda è d'obbligo. Perché la scelta di questi due libri? Beh, intanto buonasera. Grazie agli attori. Beh, quando è un tema della memoria e l'oblio che mi affascina molto in questo periodo, insomma, che io vivo come un po' molti di noi, come il cammino su un filo teso, ecco, fa memoria che guarda in avanti e memoria che guarda indietro. E questi due libri, nel mio cuore, sono due libri che vorrei che molti rileggessero, appunto, lasciandolo come invito ai lettori. Poi sono libri che affrontano in modi totalmente diversi il tema del rapporto fra presente, passato e futuro. Mi sembra un tema molto, molto attuale. Peraltro sono due libri straordinari da leggere, perché poi un libro deve essere non solo interessante per il suo significato, ovviamente, dico una banalità, ma per la sua piacevolezza. In questa, per esempio, bellissima lettura c'è tutto quello che è il tema dell'infanzia, perché c'è la fantasia, la paura, anche, diciamo, c'è la violenza delle favole, ci sono gli animali, ed è divertente il fatto che un libro dedicato alla figura di qualcuno che non vuole avere una memoria per il futuro, Peter Pan, sia scandito dal suono dell'orologio che scandisce il tempo, dai ricordi di Uncino e dalla terribile bellezza violenta di questa scena, che ricorda che neppure l'infanzia è fatta soltanto di cose piacevoli. Noi stiamo facendo questa chiacchierata all'interno del cortile del Piccolo Teatro, c'è una bellissima meridiana, per chi non la può vedere, che dice, giocando sul fatto che la meridiana funziona solo con il sole, segno solo l'ora serena, perché se non c'è il sole, no. Ma contemporaneamente è un invito a considerare solo la piacevolezza delle cose che vediamo. Ecco, in questi due libri c'è tutto, c'è il cambiamento sociale. Non dimentichiamo che questo libro è scritto all'inizio del secolo, 1902. E non è un libro per l'infanzia. Non è un solo libro per l'infanzia. Poi noi tutti siamo tutti Walt Disneyizzati, cioè ne abbiamo visto la versione cinematografica. Guardate che nello stesso anno, un anno prima, si scrive Cuore di Tenebra di Conrad, cioè il secolo inizia con la paura epocale o con la prospettiva epocale della fine del millennio, nuovo millennio. E è un libro che ha tantissimi significati, come tutti i libri che si rileggono, poi a seconda del tuo stato d'animo, dell'età, trovi dei grandi significati, ecco. Però l'idea, se posso fare un inciso, lo racconto sempre, tempo fa a Napoli ho visitato un palazzo che ha una storia bellissima, di Serre di Cassano, un nobile il cui figlio è stato ucciso durante la rivoluzione napoletana, e come gesto di ribellione questo principe napoletano ha chiuso il suo palazzo che guardava verso la reggia, l'ha chiuso per sempre come gesto di disprezzo verso la monarchia. Ma è bellissimo quello che ha scritto sul motto, e che, diciamo, forse il motivo principale per cui ho voluto portare Peter Pan a questa chiacchierata. Lui, ricordiamolo, questo motto scrive: Evi venturi non in memo, cioè non mi dimentico dei giorni che verranno. Cioè la memoria è anche proiezione verso il futuro. E l'impossibilità del sogno di Peter Pan, cioè di non crescere mai, intanto è vanificata dal fatto che non è solo piacevole la vita nell'isola che non c'è, perché assistiamo a un tremendo conflitto col male, con dei bambini che uccidono, poi uccidono serenamente, si addormenta Peter Pan alla fine. Perché vince la gioia. Eh? Perché vince perché la gioia. Io sono la giovinezza e sono la gioia, ovviamente con un po' di rimpianto per la giovinezza, cerchiamo di mantenere la gioia. Però è una lettura straordinaria, perché noi oggi viviamo un periodo in cui molti dei nostri ragazzi non è che non vogliono futuro, però aspettano a vivere. Cioè la sindrome di Peter Pan, di non voler affrontare le difficoltà del futuro, è una sindrome molto, molto presente nel, cioè in molti dei nostri, io poi parlo non come ovviamente un uomo di letture o di letteratura, ma come uomo che passa la gran parte della vita nell'azienda, uno dei problemi che riscontriamo nei giovani è la tendenza a stare sempre nelle zone di conforto. L'università, la scuola e la famiglia sono una grande sindrome di Peter Pan. Tanto che qualcuno li ha anche definiti bamboccioni. Sì, beh, devo forse, dire, poi con un'uscita, forse con un'uscita un po' infelice. Ma io trovo che se c'era una cosa che non doveva rimangiarsi era quella, ma lo dico scherzando e polemicamente. No, cioè nel senso che certamente, diciamo, noi riscontriamo ovunque, bisogna essere anche molto sinceri, in una generazione che è cresciuta con tanti, certamente, in generale ovviamente, con tanti agi, però la difficoltà di affrontare il futuro in un momento difficile c'è. Questo non vuol dire che siano bamboccioni, vuol dire che certe volte noi facciamo in modo che si comportino da bamboccioni. L'altro giorno ho incontrato alla Bayer un ragazzo tedesco, laureando in ingegneria, che laureando in ingegneria a Karlsruhe, è un'ottima università, che studia e poi guida il camion, si sta laureando, guida il camion della Bayer che porta una mostra itinerante, e ne era molto orgoglioso. Ecco, ho difficoltà a immaginare che questo sia un esempio molto seguito. Cerchiamo di frammentare la vita a pezzi, perché c'è la famiglia, c'è il gioco, c'è lo studio e c'è il lavoro, probabilmente un po' di mescolanza di questi momenti credo che farebbe bene. Forse potrebbe aiutare la lettura di Padri e Figli di Turgenev. Certamente anche la lettura di Padri e Figli. Dunque, a incamerare un po' di rabbia. Sì, a incamerare un po' di rabbia. Io quando leggo un libro e poi lo rileggo, viene a curiosità di capire cosa c'era intorno all'anima dello scrittore quando scrive. Ne parleremo magari dopo. Certo che questo pezzo di Peter Pan è pieno di poesia, è un libro straordinariamente pieno di poesia e di tutto ciò che la vita ci può offrire. Io credo che sia uno dei libri da regalare ai nostri ragazzi quando hanno forse 20 anni, 21 anni, cioè l'idea di una bella trasposizione teatrale. Peter Pan è stato rappresentato tantissimo a teatro, ecco, però questo è un tema, Spielberg l'ha affrontato al cinema, però mi piacerebbe che un Ronconi o un mostro sacro del teatro affrontasse il tema della memoria e dell'oblio. Ecco, abbiamo accennato alla giovinezza di oggi, al fatto che forse rispetto al passato manca nelle giovani generazioni un po' di rabbia. Da questo punto di vista, Padri e Figli, la lettura di Padri e Figli, tra poco ne ascolteremo un brano, potrebbe aiutare a incamerare un po' di questa rabbia, perché il giovane nichilista ha posizioni forti e fanno di quelle pagine pagine di straordinaria attualità. Ecco, perché hai scelto Padri e Figli? Beh, Padri e Figli è un altro libro meraviglioso. È un libro che affronta il problema se per costruire, lo affronta naturalmente con la meravigliosa, come dire, fluentezza di pensiero di un grande scrittore, con una scrittura bellissima, ma affronta il problema se per costruire il nuovo bisogna buttare via tutto il vecchio. La memoria sociale o la memoria individuale, che sono gli affetti, danno un contributo alla costruzione di un mondo nuovo. Guardate, è un libro scritto a metà dell'Ottocento, poco più in là, 1800. È stato scritto mentre nasceva l'Italia, durante l'Unità d'Italia, se l'avesse saputo. È stato scritto l'anno in cui Garibaldi fu ferito da una gamba, per dire. Eppure ci sembra così straordinariamente diverso. In realtà, se andiamo poi a leggere i libri scritti in Italia nello stesso periodo, troviamo sempre lo stesso tema. Tant'è che diciamo, la nascita dell'Unità d'Italia, esattamente come la nascita della nuova, come dice, classe potenzialmente rivoluzionaria allora in Russia, nasce con la stessa concezione, cioè la rottura del passato. Poi qualcuno, in quel brutto film che ha fatto, film di Mattone, non mi è assolutamente piaciuto, però c'è questo tema della, in fondo, nascita di un'Italia molto compromissoria. Quindi anche una rimozione della memoria. Certamente. La cancellazione della memoria per uno sviluppo diverso, per delle idee diverse, per una società diversa. Condizione indispensabile cancellare anche la memoria, forse. Sì, io poi sono dell'idea, a me colpisce la poca conoscenza che abbiamo spesso, tutti, della nostra storia. Tempo fa al Politecnico raccontavo dei ragazzi che all'inizio del secolo, cioè 100 anni fa, non sono emigrati, beh, 15 e 20 milioni di italiani, diciamo 15 milioni di italiani, che è un dato straordinariamente sorprendente e straordinariamente ignorato. Allora, si può guardare il futuro dimenticando che abbiamo un passato di disintegrazione? Questo è un bel tema. Dobbiamo farci carico di considerare la memoria un valore affettivo, un valore di costruzione, o dobbiamo, ciascuno di noi intendo, o dobbiamo rinunciare anche a capire da dove veniamo? Detto in altre parole, occorre venire da lontano per andare lontano o no? Ecco, questi libri hanno la bellezza del grande libro, che ti riassume secoli in qualche pagina, ti riassume la tua vita in una lettura come l'abbiamo fatta adesso, ti riassume le tue paure. Ma io penso francamente che da tanti libri, da questi libri che sono così diversi uno dall'altro, in una certa misura antitetici, troviamo qualche considerazione sul modo in cui ciascuno di noi può vedere le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Sono due libri comunque, secondo me, come grandi libri, straordinariamente attuali, delle letture non solo belle da fare, ma che ti lasciano poi, quando ti alzi al mattino, il pensiero di quello che hai letto la sera, che è sempre questo il risultato di un bel libro. Tra poco sentiremo una conversazione con Bazarov, il giovane nichilista, che dice: bando alle ciance, perdete troppo tempo voi illuminati, per costruire il nuovo bisogna spazzar via il vecchio. Sì, ma ci sono, dunque, a parte il fatto che nella tragicità dei russi c'è un altro episodio bellissimo. Alexander Blok è stato uno straordinario poeta, esistenzialista, simbolista, comunque uno straordinario poeta, e che viene affascinato dalla rivoluzione russa, salto di 70 anni avanti rispetto a padre e figli. Quando muore, Majakovskij, che è il cantore del regime, ne fa l'elogio e dice: ma Blok non era più lui, l'ho visto l'altro giorno a Pietroburgo, Leningrado, mentre vedeva questa rivoluzione in pieno corso e c'era un edificio che bruciava, e lui era comunque, contemplava questo spettacolo, e dice: ma cos'è che brucia? E Blok dice: Majakovskij mi ha risposto, contadini rivoluzionari stanno bruciando la mia biblioteca, che per lui era tutto, era la sua vita. Era ormai vecchio, consunto da amori e da passioni, da malattie, e però era così teso verso il futuro che mi ha fatto venire in mente, padre e figli, che era disposto a perdere tutta la sua memoria, simbolicamente tutti i libri, pur di guardare avanti. Ecco, io non lo so, come tutte le buone letture non ti danno mai certezze, ti fanno venire qualche dubbio in più. Allora compri un altro libro, vai a teatro, puoi sentire anche la radio, cioè una buona lettura

E intanto ve ne state a sedere con le mani in mano. Che utilità ne viene di grazia al vostro bien public? Se non vi stimaste, fareste lo stesso né più né meno. Ma questa è tutt'altra questione. A me adesso no, non conviene niente affatto di spiegare a voi per qual motivo me ne sto con le mani in mano, secondo la vostra fiorita espressione. Io voglio dire soltanto che l'aristocrazia è un principio. E senza principi, al giorno d'oggi, può vivere solo la gente immorale o sciocca. Aristocrazia, liberalismo, progresso, principi. Quante parole esotiche e inutili. Ad un vero russo non servono. E che cosa gli serve, secondo voi? No, scusatemi, ma la logica della storia esige... Ma che ne abbiamo a fare di questa logica? Ne facciamo a meno e si vive lo stesso. Come? Voi non ricorrete mica alla logica per mettervi in bocca un pezzo di pane quando avete fame. Che sugo ci trovate in queste astrazioni? No, io non vi capisco più, no. Voi insultate il popolo russo. Io non intendo come sia possibile non riconoscere dei principi, delle norme. E in forza di che dunque agite voi? Noi agiamo in forza di ciò che riconosciamo utile. E ai giorni nostri la cosa più utile di tutte è la negazione, noi neghiamo. Tutto? Tutto. Come? Non solo l'arte, la poesia? Tutto. Voi negate tutto? Tutto. Voi distruggete tutto? Sì, sì, tutto, tutto. Sì, ma è pur necessario ricostruire. Beh, questo non è affar nostro. Prima bisogna innanzitutto far piazza pulita. No, no, no, io non voglio credere che voi conosciate il popolo russo, che voi siate i rappresentanti dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni. Il popolo russo non è quello che dipingete voi. Ha il culto della tradizione, ha sentimenti patriarcali, non può vivere senza una religione. E io non ve lo nego, ma nemmeno questo dimostra niente. Ma come non dimostra niente? Come? Voi dunque andate contro il vostro stesso popolo? Eh? Contro i vostri compatrioti? E quando ciò fosse? I miei compatrioti del popolo credono, per esempio, che quando tuona il profeta Elia se ne va in carrozza sulle nuvole, ebbene? Cos'è, devo chinare il capo? Devo dire che hanno ragione? E poi voi mi dite che sono russi e non sono russo anch'io? No, no, voi no. Dopo quello che avete detto, voi non siete russo. Non posso riconoscervi per tale. Mio nonno arava la terra. Domandate a uno dei vostri contadini chi di noi due, voi o me, egli riconosce più presto per compatriota. Ma voi non sapete neanche parlare con lui. Ah sì, e voi gli parlate e lo disprezzate nel tempo stesso. E perché no, quando se lo merita? Voi condannate le mie idee. E chi vi dice che mi siano piovute in capo così, per caso? Che non siano invece derivate da quello stesso spirito nazionale in nome del quale vi scaldate il fegato. Ma voi nichilisti! Vi figurate che la vostra dottrina sia una novità? Il materialismo che voi predicate non viene adesso per la prima volta sulla scena. E sempre si dimostrò insussistente. In primo luogo, noi non predichiamo niente. E che fate dunque? Abbiamo cominciato dal dire che i pubblici ufficiali pigliano mance, sono infedeli, che non abbiamo né strade, né commercio, né giustizia. Sì, sì, sì, sì, siete dei denunciatori. In molte delle vostre critiche convengo anch'io, ma... E poi abbiamo capito che non vale la pena di ciarlare, nient'altro che ciarlare delle nostre piaghe. Ci siamo accorti che i nostri uomini illuminati, o se preferite progrediti, non cavano un ragno da un buco, che ci rompevamo il capo con tante sciocchezze dell'arte per l'arte, della potenza creatrice incosciente, del parlamentarismo, dell'avvocatura, del diavolo che se li pigli, mentre si tratta del pane quotidiano, mentre le superstizioni ci soffocano, mentre tutte le nostre società vanno a gamba all'aria per mancanza di persone oneste, mentre la stessa libertà che il governo cerca di concedere non ci servirà a niente. Perché il contadino è pronto a rubare anche a se stesso per andarsi ad avvelenare di liquori alla bettola. Ah, bene, bene. Quindi voi vi siete convinto di tutto questo e avete preso la gran decisione di non intraprendere niente di serio. E abbiamo fatto la gran decisione di non fare niente sicuro. E vi limitate a ingiuriare. A ingiuriare. Ed è questo che si chiama nichilismo? Ed è questo che si chiama nichilismo. Ah, eccoci intesi. Il nichilismo è la panacea di ogni male. Bene. Ma perché insultare i vostri stessi correligionari che accusate di troppa parlantina? Non chiacchierate anche voi allo stesso modo? Se abbiamo un peccato, non è questo. E come vi figurate di agire? Eh? O di prepararvi almeno ad agire? Agire, demolire, distruggere. Noi distruggiamo perché noi siamo la forza. E la forza non ha da rendere conto. Disgraziato, se tu potessi soltanto figurarti cosa tu sostieni in Russia con la tua ridicola sentenza, anche un angelo perderebbe la pazienza, la forza. E il calmuco selvaggio e il mongolo non hanno anch'essi la forza? Ma in che ci giova a noi? Eh? A noi è cara la civiltà. Sì, sì, caro signore, ci sono cari i suoi frutti. E non mi venite a dire che questi frutti sono nulli. L'ultimo, imbrattatele, il più meschino strimpellatore, sono tutti e due più utili di voi, perché sono dei rappresentanti della civiltà e non della forza bestiale. Voi vi credete gente progredita e il vostro posto sarebbe in un carretto di calmucco, la forza. Ma ricordatevi alla fin fine, signori forti, che tutti insieme voi siete appena quattro uomini e un caporale, e che gli altri si contano a milioni, e che non vi permetteranno di calpestare sotto i piedi le più sante credenze, che vi schiacceranno. Se ci schiacceranno vorrà dire che non meritavamo di meglio, però non siamo così pochi come vi immaginate. Ma voi pensate sul serio di modellare tutto un popolo secondo la vostra testa? Con una candela d'un soldo, sapete, Mosca andò in fiamme. Oh, sì, sì, sì, sì. Prima l'orgoglio di Satana, poi l'ironia. Ecco, ecco quel che seduce la gioventù. Ecco quel che guadagna i cuori di questi ragazzi inesperti. E il contagio si è già diffuso lontano. Mi dicono che a Roma i nostri artisti non mettono piede in Vaticano. Sì, perché per loro Raffaello è poco più che un idiota, perché fa autorità, capite? E loro sono impotenti e infecondi. La fantasia loro non va più in là della ragazza alla fonte, non riescono a fare altro. E fosse almeno dipinta bene questa ragazza. Bravi ragazzi, secondo voi, eh? No, io non darei nemmeno due soldi per Raffaello. E penso che essi non valgano di più. Oh, bravo! Bravo, bravo, bravo. Capisco ora che i giovani ti seguono a stormi. Sfido io. Prima ai giovani toccava di andare a scuola, erano costretti a studiare. Adesso no. Basta che dicano è tutta una sciocchezza nel mondo, il gioco è fatto, si sa. I giovani non ci stanno più nei panni. Prima non erano che dei balordi, adesso eccoli qua. Nichilisti. Sì, mi faccio notare che il decantato sentimento di dignità personale vi tradisce. Sarebbe meglio smettere, no? Sarò d'accordo con voi quando mi avrete indicato una sola istituzione sociale o familiare che non meriti di essere completamente o inesorabilmente abolita. No, ma non una, milioni ve ne citerei. Prendete la famiglia. La famiglia come la si trova presso la gente di campagna? Sì, credo che nel vostro interesse non vi convenga entrare nei particolari di questo argomento. Sentite, Pavel Petrovich, prendetevi due giorni per pensarci sopra. Sul momento non troverete niente. Passate in rassegna tutte le nostre classi, consideratele bene una a una, e noi intanto... Vi burlerete di tutto. Squarteremo delle rane. Beh, sembra quasi incredibile che siano pagine scritte più di un secolo fa. Sì, perché il nostro Fabio Tamburini pensava evidentemente a Beppe Grillo. È finito squartando le rane, certo. Sono venuti in mente i grilli. Sì, vabbè.

Forse ci sono i momenti riservati alla memoria e i momenti in cui è meglio l'oblio. La vita è un alternarsi di memoria e oblio. Sì, ma io poi non è che ho una autorevolezza spirituale, però è certo che che anche l'oblio, cioè si dimentica qualcosa ovviamente che si è vissuto, si combatte ciò che si è vissuto. Quando Picasso diventa cubista ha ben presente la storia della pittura, tra l'altro si accenna molto a, cioè c'è un passaggio a Raffaello, il vecchio conservatore dice Raffaello parlando con Basarov. C'è un'altra cosa bella che Picasso, sia un altro pittore, dice sono stato in Vaticano, ho visto Raffaello, bravissimo, però si può fare. Poi sono andato a vedere Michelangelo, ecco, quello non si può rifare. Cioè, anche, cioè ognuno vede la memoria anche dell'arte come manifestazione o meno di una modernità. Picasso vedeva in Michelangelo la modernità e vedeva la tradizione di Raffaello. Questo per dire che ciascuno di noi ha la sua risposta, ma insisto, la bellezza meravigliosa di Peter Pan e di Padre e Figli, che sono così diversi, è che non trovi delle risposte, trovi delle contraddizioni, trovi delle illusioni, perché Peter Pan è un grande illuso, è un commovente, meraviglioso, grande illuso, che vuol vivere solo la bellezza e agisce anche la cattiveria, perché poi ha aspetti cattivi. Cioè noi siamo abituati a vedere l'uomo come un tutt'uno, un tondo rinascimentale, non è così. E, cioè, e questi due libri dicono entrambi una cosa, a distanza di mezzo secolo, uno in un secolo che stava finendo, perché stava finendo la grande proprietà, stava finendo la frammentazione degli stati europei, stava finendo tante cose, stava finendo la disintegrazione dell'Europa e stava nascendo un secolo nuovo. Questi scrittori cercano di dare una risposta emotiva, o meglio, cercano di dare una risposta razionale e ci danno quello che solo i grandi scrittori riescono a dare, cioè l'emozione. Io, vivendo questi giovani attori, leggere la memoria di libri scritti, guardando al futuro, mi sono molto emozionato. Forse si può dire, cercando una sintesi, che il motore migliore per il progresso, per il cambiamento, è un sapiente alternarsi di memoria e oblio. E io ripeto, a me piace molto la cucina, cioè il segreto della cucina nel cubismo è quanto basta, cioè ognuno poi ha la sua ricetta personale. Io penso penso che poi alla fine l'unico motore vero e della storia e dell'azione sia il sentimento. Steiner, che è un grande intellettuale, dice non è la parola, non è alla fine dietro la parola, dice cosa dice la parola a sordomuto, dietro ogni parola scritta o parlata, dietro una recitazione, alla fine dice la cosa essenziale è che c'è dentro un sentimento. Memoria e oblio sono due stati d'animo. Io penso che il sentimento di ciascuno, per quanto può apparire banale, trasforma in motori di cambiamento o di conservazione, uno fa tornare questo misto di sentimenti. Quindi voti Peter Pan? Beh, devo dire che a me mi sarebbe piaciuto che dopo questo colloquio Basarov fosse volato come Peter Pan. Ecco, conversazione appena letta, copyright Beppe Grillo, verrebbe da dire. Ma anche qui c'è una sapiente alternanza, perché alla fine Grillo rappresenta un movimento anti-istituzionale, rappresenta la necessità dell'oblio e del cambiamento più che la memoria, forse, ma è anche il Grillo che viene applaudito dall'ambasciatore americano David Thorne, che indica il grillismo come passaggio fondamentale del cambiamento e lo dice ai giovani di un liceo romano che lo vanno a trovare. Beh, ma cioè io devo dire, non sono uno che cerca totali coerenze e comportamento. Cioè, certamente è un movimento che ha delle componenti di energia molto forte, è una componente nichilista. Boh, se tu guardi come sono fatti i giornali oggi, dici, beh, forse vive il nichilismo, cioè possiamo immaginare che si dia credibilità a un establishment che riempie le pagine dei giornali, si è svolto alla Farnesina l'incontro, ma chi se ne frega se si è svolto l'incontro. No, no, cioè... Chiuseremo come testimonial di Radio 24 delle radio. Io penso, sì, beh, sono, lui sa che io sono un amante della radio e del teatro. Io penso che tutto quello che si fa con la luce bassa, insomma, porta una maggiore riflessione. Che non... Beh, a me piacciono le cose sottovoce, cioè, insomma, ognuno ha il suo stile. Di... Io credo che però una qualche riflessione, tutti, anche cioè, gente come me che di mestiere fanno imprenditore, dirigente d'azienda, una qualche, cioè, indipendentemente dall'età, è il momento in cui forse qualche domanda bisogna porsela, cioè il tempo delle domande. Noi continuiamo a pensare, è una risposta Grillo? No, è una bella domanda, sì, è una bella domanda, secondo me è una bella domanda. Allora sei Grillino? No, non sono Grillino, però non posso immaginare che ci sia l'aristocratico che si vanta del suo liberalismo nell'epoca del passaggio dall'abolizione della servitù della gleba, quello era il periodo. Ecco, penso che forse uno scossone faccia bene a tutti, se si vuole cogliere, se ti chiudi nella stanza, certo che non senti le voci fuori, è facile. Ecco, per la radio, per una radio come puoi accendere la radio, se chiudi la stanza puoi accendere la radio. È importante perché è l'audio, no? Racconta, siccome c'è il diritto di parola, e quindi il diritto di parola vuol dire raccontare quello che pensa la gente, e quindi aiuta a essere vicini al paese reale. Guarda, io voglio dire una cosa, se mi dai ancora un minuto, sai che sono pericolosissimo da evitare perché parlo molto, però vi consiglio un'altra lettura aggiunta in più, proprio di memoria, ed è bellissima, ed è un racconto breve di Saul Bellow che parla di Roosevelt, quindi parla dell'America in guerra e parla della radio, e dice la radio viene usata in maniera totalmente diversa da due personaggi. Hitler la usa come strumento di propaganda, Roosevelt la usa come strumento di risveglio delle coscienze. E chiude Bello in questo bellissimo racconto: mi ricordo la giornata sul lago di Chicago in cui camminavo e Roosevelt stava facendo un discorso, gli Stati Uniti entravano in guerra, e faceva caldo, c'erano tutte le radio accese, per cui io camminavo e continuavo a sentire lo stesso discorso, con un'immagine molto bella di questa radio, e finisco, e ho sentito i discorsi di Roosevelt, tutti rassicuranti, eccetera, eccetera. Però la cosa che ricordo di più era il profumo delle catalpe sul lungo lago di Chicago. È bello, cioè tutto questo, la radio, le letture, eccetera, eccetera, sono in fondo filtrate dall'emozione, e l'emozione è una cosa di cui rivoluzionariamente bisogna rivendicare la propria identità. E di emozione, devo dire, nell'ultimo brano che adesso ascolterete ce n'è davvero tanta. Wendy, addio, disse Peter a Wendy, pronto a volar via. Te ne vai? Sì? La signora Darling si avvicinò alla finestra perché ormai non perdeva più di vista Wendy e disse a Peter che, avendo adottato gli altri ragazzi, volentieri avrebbe adottato anche lui. Mi manderesti a scuola? Si informò lui cauto. Certo. E poi in ufficio? Penso di sì. Io non voglio andare a scuola e imparare cose noiose, no, dichiarò Peter con energia. Io non voglio diventare un uomo. Ma ti sentirai piuttosto solo di sera, quando ti siederai accanto al fuoco, disse Wendy, non ha importanza. Peter, ma tu lo sai che ne ha molte invece, e allora vieni con me. Mamma, posso? No, cara, vi ho di nuovo tutti a casa ora e sono ben decisa a non lasciarvi più scappare. Allora va bene, concluse Peter, come se le avessi chiesto di seguirlo solo per cortesia. La signora Darling vide la sua bocca tremare e gli fece questa generosa offerta. Avrebbe permesso che Wendy andasse da lui ogni anno una settimana per le pulizie di primavera. La promessa bastò a rendere Peter tranquillo, soddisfatto. Non aveva alcuna nozione del tempo. Non mi dimenticherai, vero? Peter, prima che arrivi il tempo delle pulizie di primavera. E Peter naturalmente promise di no. E poi volò via. Ovviamente, tutti i ragazzi andarono a scuola. Dopo una settimana di scuola capirono quale sciocchezza avevano commesso abbandonando l'isola. Ormai era troppo tardi per i rimpianti e presto riuscirono a diventare esseri normali, come voi, me o qualunque altro. A poco perdettero la capacità di volare. Da principio Nana legava loro i piedi all'estremità del letto in modo che non potessero volare via durante la notte. Poi, a poco, la smisero di tentare di rompere i legacci in fondo al letto. In breve, non poterono più nemmeno volare dietro ai loro cappelli e lo attribuirono a mancanza di esercizio. Il fatto era che non credevano più alla possibilità di volare. Peter venne a prendere Wendy alla fine del primo anno. Wendy volò via con Peter indossando la gonna da lei stessa intessuta con le foglie e le bacche dell'isola che non c'è, e il suo solo timore fu che lui si accorgesse di quanto si era accorciata. Peter non se ne accorse. Aveva troppe cose da raccontare. Wendy aveva pregustato il lungo, sottile piacere di rievocare con lui i vecchi giorni e invece... Chi è? Il comandante Uncino? Le domandò con interesse quando gli parlò del nemico numero uno. Ma non lo ricordi? Chiese lei stupita. Non ricordi come lo hai ucciso e hai salvato le nostre vite? E poi, chi è? Trilli? Peter! Esclamò Wendy sgomenta, e neppure dopo che egli gli ebbe spiegato ogni cosa lui riuscì a ricordare la piccola fata insolente. Credo che ormai Trilli sia morta. Fu per Wendy un grosso dolore constatare che, mentre a lei era sembrato eterno il trascorrere di un anno, per Peter era stato come il trascorrere di un giorno. L'anno dopo, Peter non tornò. Poi gli anni passarono. I bimbi sperduti nel frattempo erano cresciuti e avevano scelto le loro strade. Potete vedere i gemelli, Pennino e Orsetto, andare ogni giorno in ufficio portando sotto il braccio una piccola cartella, l'ombrello. E Michele? È ingegnere. Volpuccio ha sposato una signora di nobile famiglia ed è diventato lord. Vedete quel giudice in parrucca bianca uscire da quella cancellata? Deve essere Trombetta. E l'uomo con la barba, che non ricorda più nemmeno una favola da raccontare ai suoi bambini? Gianni. Passarono altri anni. Wendy ebbe una bambina. La bimba venne chiamata Jane e aveva sempre uno strano sguardo interrogativo, come se fin dal momento in cui era venuta al mondo volesse fare delle domande. Non appena fu cresciuta abbastanza da poterne fare, in massima parte riguardavano Peter Pan. Ahimè, come vola il tempo, sospira Wendy. Vola? Chiede l'astuta bambina. Vola come volavi tu quando eri piccina. Come volavo io. Sai, Jane, a volte mi chiedo se io abbia mai volato. Ah sì che hai volato! E perché ora non sei più capace di volare, mamma? Oh, perché sono una persona adulta, gioia mia. E quando si diventa grandi, si dimentica purtroppo come si fa. Perché si dimentica?

Wendy sospirò. Se solo potessi venire, anche io con voi. Il nostro ultimo sguardo vede Wendy alla finestra mentre osserva i due bambini che si allontanano nel firmamento finché non diventano piccoli come stelle. E così avverrà sempre, finché i bambini saranno spensierati, innocenti e crudeli. Grazie per la qualità delle letture. Ancora una volta grazie. E io credo che per voi che siete qui questo pomeriggio e anche per gli ascoltatori, il modo migliore per chiudere questo incontro è una dichiarazione di intenti, quello di avere sempre voglia, al di là del dato anagrafico, di volare. E lasciamo aperta ogni tanto una finestra, una porta. Dalla porta può darsi che entri Basaroff, e dalla finestra può darsi che entri Peter Pan. Grazie, buonasera.